Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Prima Milano, poi Roma. Città indifferenti, città violente. Città che girano la faccia e chiudono la bocca. In questa settimana è stato così. Investe un cane e scende dall'auto per scusarsi. Il padrone lo picchia, tassista in coma a Milano. Riduce in coma una donna in metropolitana tra l'indifferenza dei passanti. Arrestato a Roma un giovane pregiudicato. Quanto dura un minuto? Può durare un'eternità se il corpo di una giovane donna è steso a terra senza sensi in una metropolitana affollata di passanti. Quanto dura un pestaggio? Abbastanza perché chi sia nei paraggi capisca e scelga. Scelga se intervenire, chiamare soccorsi, avvertire le forze dell'ordine o chiudere occhi e orecchie, accelerare il passo e anche davanti agli inquirenti tacere e non collaborare. Prima Milano, poi Roma. Due brutali aggressioni in un desolante clima di omertà. Usa queste parole a proposito dei fatti lombardi il GIP Meneghino, Maria Grazia Domanico, convalidando il fermo dell'aggressore del tassista. E da qui partiamo in questa puntata di Storiacce, dalla violenza e dal silenzio in una città, Milano, che a un certo punto si risveglia e non si riconosce. Il prefetto di Milano, Gian Valerio Lombardi. L'episodio del tassista è un episodio in sé banale, perché c'era una signora che portava a passeggio il proprio cane senza guinzaglio. Il cane si è allontanato ed è andato sulla strada e il tassista non è riuscito a frenare in tempo e purtroppo ha investito l'animale, il quale è deceduto. E quindi insomma questo ha scatenato ovviamente la reazione della padrona, perché poi si sa che le persone che amano gli animali hanno una sensibilità particolare, quindi c'è stata questa reazione. Il tassista è anche sceso per giustificarsi, per insomma anche chiedere scusa, e naturalmente facendo presente che l'animale era senza il guinzaglio. L'accompagnatore ha reagito malmenando il tassista, il quale è andato in coma, e quindi l'episodio in sé è stato scatenato da un fatto abbastanza banale, insomma, ecco. Poi ovviamente è evidente che in città metropolitane di una certa grandezza, come può essere Milano, come può essere Roma, cose del genere inevitabilmente possono accadere, insomma. Quindi io scorporerei questi problemi che sono avvenuti a Milano e a Roma come problemi che attengono alla sicurezza generale, insomma. Però si tratta sicuramente di due episodi molto gravi, di due episodi diversi che hanno colpito e anche scosso l'opinione pubblica, avviando anche un dibattito. Io so che lei, come moltissime persone, come anche la sottoscritta, è un amante degli animali e dei cani. La reazione come la valuta? No, la reazione è, se da un lato è comprensibile per l'affetto che la signora aveva per l'animale, insomma, indubbiamente malmenare al punto quasi di ridurre in fin di vita una persona mi sembra comunque una reazione sproporzionata. È evidente che in città grandi, come le dicevo, cose del genere possono succedere. Milano peraltro è una città che ha vissuto una profonda trasformazione nel corso degli ultimi 15 anni. Si è passati da una popolazione di immigrati che, mentre all'inizio degli anni 80 sommava a poche migliaia di unità, adesso ha raggiunto nell'intera provincia quasi 400.000 persone, insomma, quindi. Ma secondo lei, prefetto, questa trasformazione può essere anche una delle ragioni di certi episodi di violenza? Direi che non c'è un nesso di causalità diretta fra le due cose, ma è evidente che avere, diciamo così, nella popolazione gruppi di persone che hanno culture, opinioni, religioni e abitudini profondamente diverse dalle nostre, ovviamente incide poi sulla, diciamo, vita collettiva della città. Milano poi ha vissuto anche la trasformazione della sua economia, era un'economia soprattutto industrializzata alcuni lustri fa, adesso invece è diventata soprattutto un'economia dei servizi. Si è discusso molto anche di quello che è successo dopo l'aggressione, cioè il fatto che persone anche presenti al momento in cui siano state raggiunte dalle forze dell'ordine, dalla polizia che stava indagando su quanto accaduto, si siano tirate indietro, siano rimaste rimasta in silenzio, tanto è vero che il pubblico ministero nella sua richiesta di convalida dei fermi parla di desolante clima di omertà. Non le fa impressione sentire queste parole a proposito di Milano? Io sono d'accordo col pubblico ministero che a volte questi comportamenti reticenti sono veramente desolanti, però credo che questo trovi una giustificazione nelle grandi realtà urbane che esistono oggi non solo in Italia ma insomma nell'intero pianeta. Un comportamento del genere non è proprio soltanto di una città come Milano, come Roma o di altre metropoli italiane. In città importanti americane la tendenza è la stessa: quando uno assiste a episodi in cui poi può essere coinvolto per testimonianze, per tutta una serie di incombenze che alla fine vengono percepite come fastidiose, la gente tende purtroppo a ritirarsi. Per chi non collabora si parla anche dell'ipotesi di una contestazione di un reato di favoreggiamento. Lei che ne pensa? Bisogna puntare molto di più sull'educazione, sulla formazione civica delle persone, perché una forma di collaborazione in questo senso, se trova soltanto la sua natura in un provvedimento coattivo, in un provvedimento che prevede sanzioni, non porterà mai ad una vera collaborazione. Ecco, bisogna far capire alla gente che collaborare è un fatto importante, che è un fatto di civiltà, e naturalmente al tempo stesso bisognerebbe anche che le autorità cercassero di far sì che chi collabora perda il minor tempo possibile. Insomma, si tratta di agire secondo me su due fronti: da un lato sull'educazione delle persone e dall'altro però pure da parte dei pubblici poteri, che ovviamente si devono rendere conto che il cittadino che collabora è un cittadino che lavora, è un cittadino che ha problemi, è un cittadino che ha tante cose da fare, che naturalmente collaborerebbe molto più volentieri se perdesse il minor tempo possibile. Cioè la burocrazia cancella il senso civico? Ho impressione di sì, che a volte le esigenze della burocrazia, che si traducono per il cittadino in una percepita perdita di tempo, possono indubbiamente condizionare dei comportamenti che diversamente potrebbero essere molto più collaborativi. Ecco, prefetto, a proposito ancora di silenzio, che forse proprio perché Milano ha un'immagine diversa di sé, questi elementi stanno facendo discutere molto e sono argomenti di dibattito, però di silenzio, e sempre qui a Milano e nel suo stretto hinterland, si è parlato più volte anche in altri contesti. Ad esempio, sempre qui è stata arrestata una prima vittima di usura, arrestata perché omertosa, arrestata perché non collaborava con le forze dell'ordine in una inchiesta contro 'ndrangheta. Anche in quel caso c'è a Milano la stessa omertà che vediamo in altri contesti d'Italia? Io tenderei a escludere una, diciamo, realtà del genere. Naturalmente dei singoli episodi ci sono, e ovviamente si può anche comprendere che una persona che resta vittima di forme di usura, proprio per il timore di avere delle ritorsioni, possa non collaborare con la giustizia. Ma in realtà credo che fra tutte le città italiane Milano sia sicuramente una delle più aperte alla collaborazione, di quelle che ovviamente vivono il silenzio in maniera, diciamo così, assolutamente diversa da altre realtà del paese. Però, prefetto, questo più volte è stato ribadito in più contesti, del fatto che le vittime a vario grado di reati gravi abbiano sempre taciuto, e questo anche quando le persone, autori delle possibili ritorsioni, erano già in carcere, erano già quindi non più in grado di nuocere. Questo si evince ad esempio anche da una delle ultime ordinanze di custodia cautelare, sempre in un'inchiesta contro 'ndrangheta, partita proprio da una denuncia del pubblico ministero, Ilda Boccassini, che diceva le vittime non denunciano. Insomma, non pare che in realtà a Milano ci sia tutto questo coraggio. No, guardi, le ripeto, qui è una questione ovviamente di numeri, non dobbiamo escludere la presenza di persone che non collaborano, questo l'abbiamo detto, però se dobbiamo rapportarlo ai numeri, all'importanza della città di Milano, mi sembra che alla fine le quantità siano poco significative. È chiaro che dobbiamo vigilare, dobbiamo essere attenti, dobbiamo fare tutto il possibile per evitare che la gente tenda a disinteressarsi, tenda a non collaborare, perché naturalmente la collaborazione civica è un po' il sale, no, del buon funzionamento delle istituzioni, del buon funzionamento della giustizia. Dobbiamo agire molto sulla coscienza civica delle persone. Però, in che modo, secondo lei? Secondo me uno dei sistemi più classici e tradizionali può essere quello di incentivare, quello di rendere remunerative, di rendere premiali le forme di collaborazione, perché naturalmente se le persone sono coinvolte dal punto di vista etico, ma anche da quello di poter ricevere un beneficio dalla propria collaborazione, adesso non so immaginare in quali forme, ma questo potrebbe essere indubbiamente uno stimolo a collaborare di più. Quando uno collabora deve fare testimonianze, deve andare in uffici pubblici, deve andare in uffici di polizia, deve compiere un'attività civica che però poi si traduce in perdite di tempo e comunque in una sorta di restrizione, diciamo così, della libertà delle persone, viene percepita così. Tu se collabori sei premiata in questo modo, ottieni questo vantaggio, ti facciamo perdere il minor tempo possibile, e allora probabilmente la gente collaborerebbe di più. L'estate scorsa un agente della polizia è stato aggredito da un gruppo di persone per aver fermato il pestaggio di un magrebino. Milano risentì di un tratto il fiato delle sue periferie. Da Corvetto a Via Padova, messa alcuni mesi prima a ferro e fuoco durante scontri tra latinos. Ora, e ancora una volta nella periferia sud, un tassista viene ridotto in fin di vita e i pochi che hanno da subito collaborato con le indagini subiscono ripercussioni. In questa seconda parte di Storiacce ripartiamo da qui con il prefetto di Milano Gian Valerio Lombardi. Ripartiamo dalle periferie che prima o poi, come ebbe a dire tempo fa il ministro dell'interno Maroni, ci faranno piangere. Un rischio periferie nelle grandi realtà urbane c'è sempre, perché ovviamente la periferia generalmente è un luogo in cui si concentrano le presenze di persone che sono meno abbienti, che sono maggiormente piene di problemi. Però la risposta può essere quella che noi stiamo adottando qui a Milano. Col sindaco Moratti abbiamo fatto un programma di azione che riguardava man mano i diversi quartieri. Il sindaco ha adottato la cosiddetta ordinanza Maroni, l'ordinanza di sicurezza urbana che consente di prendere delle misure provvisorie. Lo abbiamo fatto nella zona di Via Padova, l'abbiamo fatto in altre zone della città, in Via Sarpi, e questo lavoro, insomma, sta dando indubbiamente dei frutti. Chiaro. Quindi non ci sono periferie fuori controllo? Beh, insomma, fuori controllo, insomma, non direi. Noi facciamo un lavoro di controllo che è abbastanza continuo. È chiaro che problemi di degrado, problemi di qualità della vita, problemi di difficoltà generale nella vita in quei quartieri, come in tutte le periferie delle grandi città, ci sono, però l'importante, a mio avviso, è quello di vigilare, di far sì che, non abbassando la guardia, insomma, il limite di tolleranza possa essere in qualche modo mantenuto. Prefetto, in questo momento la preoccupano di più le periferie o quanto possa avvenire intorno e all'interno delle fabbriche? Le periferie sono, diciamo così, oggetto costante di attenzione anche da parte del nostro Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, anche un problema di lavoro sul sociale. Sicuramente. A proposito delle fabbriche invece? Invece per le fabbriche noi facciamo qui in prefettura un lavoro anche di mediazione sociale per cercare di prevenire le tensioni e i conflitti. Abbiamo per esempio l'anno scorso risolto il problema della INSE, non so se si ricorda quella importante, certo, fabbrica. Ecco, siamo riusciti a garantire, in una situazione di notevole complessità, la ripresa dell'azienda. Abbiamo seguito tante altre crisi aziendali. È anche vero però, prefetto, che nelle ultime settimane ci sono state scritte con stelle a 5 punte, oppure in altre città d'Italia ci sono stati anche casi di aggressioni, assedi, per esempio dei sindacati. Secondo lei c'è un momento di preoccupazione, di degenerazione? Per il momento non credo che ci sia questo pericolo. Lei deve pensare che in città grandi come Milano una fascia di persone, di soggetti che comunque alimentano una contestazione ci sono oggi, ci sono stati ieri e ci saranno pure domani. Insomma, questo è un fatto con il quale dobbiamo, diciamo così, convivere. Una altro argomento sensibile su cui anche lei è stato in qualche modo coinvolto ed è stato sicuramente un grande tema di dibattito a Milano è quello dei Rom. L'ultimo, ma solo in fase cronologica, è stato un titolo del Washington Post su Milano e sulla tolleranza zero contro i Rom. C'è stato il capitolo che ha coinvolto anche il ministro dell'interno Maroni, che ha detto niente case per i Rom. Vicenda del campo Triboniano è diventato un problema serio per Milano? Intanto le do un po' di numeri. Noi all'inizio, in cui io sono stato incaricato di svolgere il compito di commissario per emergenza nomadi, all'inizio avevamo avuto un conteggio di circa 8-9 mila nomadi nella provincia di Milano. Oggi ne abbiamo poco più di 1500. Ma quindi dove sono tutti gli altri? Molti sono ritornati nei paesi di origine, molti sono rimpatriati, alcuni hanno trovato una collocazione in aree diverse del paese, altri sono stati anche incentivati ad andare in alloggi sul mercato privato. Del resto il Washington Post ha fatto anche un elogio a Milano per l'approccio abbastanza pragmatico che ha assunto in questo campo. È sicuramente un problema europeo, si è visto tutto quello che è successo anche in Francia nel momento in cui il presidente Sarkozy ha deciso i rimpatri. A Milano però questo tema ha provocato anche una spaccatura abbastanza forte tra rappresentanti degli enti locali o delle istituzioni e anche il mondo della Chiesa e della Curia, con cui invece solitamente, diciamo, su questo argomento c'era una forma di collaborazione, non trova? Sì, no, lei ha ragione, e in effetti la forma di collaborazione è continua, per la verità. Il fatto è che molto spesso c'è anche un approccio ai problemi che non tiene conto, diciamo così, della realtà dei fatti. Per esempio, questo problema delle case: noi, per poter realizzare il programma di sistemazione degli occupanti di questo campo regolare che è il Triboniano, si era pensato di utilizzare alcuni alloggi dell'ALER, ecco, in quella quota di alloggi che oggi di fatto sono inutilizzati, perché l'ALER non ha le risorse per metterli a posto. Allora, la legge regionale prevede che si possa dare un numero di appartamenti a un gestore sociale che li sistema, li mette a posto a sue spese e che li utilizza temporaneamente per dar tempo di risolvere una situazione alloggiativa per determinate persone. La politica, e quindi non noi, ha scelto di inviare un messaggio anche in vista dell'apertura di Schengen a Romania e Bulgaria al marzo prossimo. Si è detto: facciamo in modo che non si mandi l'idea che Milano dà le case ai nomadi, perché questo avrebbe anche involontariamente potuto comportare un aumento, ecco. Ha citato la politica. A proposito di questo, la politica ogni tanto presenta emendamenti, proposte di vario tipo per l'abolizione delle prefetture. Qual è la sua opinione? Sembra di dire che insomma la cronaca quotidiana dimostra che un'istituzione del genere non solo è utile, ma insomma fa anche un lavoro importante sul quale la stessa politica fa molto affidamento. Quindi insomma sono un po' imbarazzato nel dare un giudizio su questa cosa, però mi sembra che la realtà dei fatti viaggi in una direzione del tutto diversa da quelle delle proposte di abolizione. Se venissero abolite le prefetture, il risparmio sarebbe molto contenuto, perché noi non abbiamo un budget di spesa autonoma come prefetture, quindi abbiamo un bilancio che è quello del nostro ministero. Siamo poche decine di persone in genere per ogni sede, e magari nelle prefetture più grandi si arriverà ad avere 200 persone per sede. Non sarebbe questo, diciamo così, un modo per poter risparmiare in maniera significativa, insomma, ecco. Ma in questi giorni le prefetture sono state sotto accusa anche per il capitolo liste delle amministrative. Sono gremite di gente indegna, è stata la denuncia del presidente della commissione antimafia Beppe Pisanu, secondo cui alcune prefetture non hanno mandato gli atti richiesti, altre solo in parte. Lombardi replica, ma come presidente dell'ANFACI, l'Associazione Nazionale Funzionari Amministrazione Civica dell'Interno. Come presidente dell'Associazione dei Prefetti ho inteso un po' difendere i prefetti da alcune accuse che erano state loro rivolte, per dire che noi abbiamo fatto tutto nel massimo spirito collaborativo. Eravamo stati richiesti di fornire notizie sui candidati alle elezioni per vedere se i partiti che avevano sottoscritto un codice di autoregolamentazione avessero rispettato l'impegno preso. Ora però noi, pure volendo collaborare al massimo. Noi non possiamo però raccogliere dati su persone che la legge non ci autorizza a fare, quindi voglio dire, se la legge non ci copre, io non posso chiedere informazioni su una persona. Anche se il fine è nobile, noi come prefetti possiamo acquisire informazioni e notizie soltanto su persone che la legge ci consenta. Quindi, siccome la legge qui non c'è, non l'abbiamo potuto fare, però abbiamo invece mandato i dati e le informazioni sui candidati eletti, perché questo la legge ci consente di fare. Quindi il problema sta in una modifica della legge, mi sembra. Esatto, quindi o una legge ci abilita a farlo, allora lo faremmo molto volentieri. Ecco, ma su questo mi pare di capire che la politica non ha trovato un'intesa ampia. Per noi che siamo dei funzionari, se c'è una legge che ci consente di farlo, lo faremo senz'altro. Come sempre vi ricordo che potete riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, sul sito radio24.it e da lì accedere anche al nostro audioblog. Ciao, buon weekend a tutti, a sabato.